Aspetta un attimo, lo tolgo questa felpa. Gigio! Allora. Oh signore, sono congoccato, sono un pochettino stanchino, cazzo, ho lavorato oggi. Abbiamo buttato giù bauli, cazzo, dal camion. Ah, vero? Andava, io ho fatto quello, poi sono andato a vedere il camion perché non partiva. C'ha le batterie contrapposte, 24 va il camion. Ascolta, ma tu ne lo sai com'è? Ma dovrebbe essere, c'è un ponte, c'è, che collega le due batterie. Ma di che cosa stai parlando tu? Del camion. E beh, c'è un ponte. E beh, sono collegate assieme. Dipende da come sono collegate, se in serie o in parallelo. Io ho visto che c'è un ponte, ma secondo me bisogna mettere uno positivo e negativo, l'altro bisogna contrapporlo, il ponte. Mandami una foto tu. Adesso no, non ce l'ho lì, non ce l'ho, però già ho capito io come va messo. Cioè tu devi collegare due batterie insieme, com'è? Non sai com'è il camion, cioè ne ha due contrapposte, cioè. Prendi il quattro, cammina il camion, mi chi lo vuoi? Ehi, dimmi Natale. E va 24 volte il camion, state attenti a non sbagliare perché c'è il fuoco. No, quello non so, sbagliare non sbaglio, però c'è un ponte, c'è, che io mi ricordo che va attaccato da un positivo e negativo, poi va attaccato da quella di vicino, va attaccato il positivo e negativo, è fatto così a 24. Esattamente. Mia, chi, dove, cosa c'è Gabriele, vuoi parlare anche tu? Qualcosa? Di qualcosa? Sicuramente è così, però. E che una è bruciata, l'abbiamo controllata col test, è bruciata la batteria, è per quello che non mette in moto. Oh Natali! Ui! Già ci sei! Ma è cambiata ieri il camion tu? No, non le ho mai cambiate, però si misurano attaccate le batterie, mi. Si misurano, capito, per sapere se è bruciata o no, una per una le devi controllare. Sì, l'ho staccata anche questo ponte, li ho staccate tutte e due, adesso vogliono mettere, o le mettere, sicuramente le mettono nuove. Facile, no, questi cazzo non facile. A chi va punto? Zitta! Adesso ti picchio, amico. Che sto parlando? Stai zitto! Fatto così, ci vuole anche, poi bisogna guardare molto lo spunto, ci ha detto, non tanto quanto gli ampere, perché può avere 80 ampere, però cosa ne so, una supposizione, c'ha 600 di spunto e magari ce ne vogliono 800, non ce la fa, capito? Sì, infatti, perché vogliono potenti quelle del camion, che è un bel duro a mettere in moto il motorino, infatti non è che lo, quando se lo devi lasciare per poco, lo devi da gatti, non devi chiudare, sennò ti crepa di batterie. Sì, cazzo, quello grande, l'FL12, c'ha ogni batteria da 180 ampere. Lo so. La mia ce li ha da 100 ampere, la macchina mia, figurati. perché il diesel è più duro della macchina a benzina. La macchina a benzina per esempio era da 40 ampere, pari, la batteria, figurati un po'. Invece la mia è diesel e c'è la grande per quello, perché il motore è più grande, più tutto. Capito? Da 180 per quelle delle, sia quello delle FDU, ce ne abbiamo tre di camion. Cato ne ha messo di batteria, gatta, cosa da alimentare. Invece l'altro, le FLC, ce li ha più piccole. Per mezza girare il volano del camion, ma lì ci urai. Come te? Devi far girare chi su, ma con il moto. Il motorino. Anche il motorino è diverso, va 24 volte. Le FLC invece quello là ce l'ha più piccola, le batterie erano da 80 erano. Ma perché è più piccolo il camion? Ma tu metti le ferre 2100 della Iesu, vedrai come pompa. Tutti Volvo sono, è appunto quello che raccontavo. Sono macchini buoni, gli sì. Ma mi ha detto coso che ne aveva uno che dice che come quello è mostruoso. Ma quello che aveva fatto l'Iveco, quello 8 cilindri, dice che quello lì era mostruoso. Di 190. 190. Dice che come quello, E io bisogna saperlo buttare, a chi si fa un jump fuller, se non lo sai buttare, manco li marci di centrare. Cioè che era eccezionale quel camion. E un motore che tirava pure forte. Sì, lo so. Lo so. 190 era un bel camion, col cambio fuller. Quelle parole, no ma. Chi si senta pressione deve entrare in marcia. Il 38 te l'ha a mente, 190. Tu so. So camion a vivo. E ci vogliono le palle per guidarlo, devi saperlo guidare. Sì, con Gabriel Pina siamo scesi una volta da qua a Ulbia. Quello lì mi ha detto che è Peppino, che è lui che li guidava, dice che di notte, quando non sa tra lui non ne fregava un cazzo, di notte quando era al buio, dice che tirava questa macchina, ma che si metteva a camminare, ma tirava, cazzo, che era una cosa fantastica. Macchine del genere, dice, no, non ne ho più guidato io. Ho comparato con un Mercedes a Cagliari, mi a Cagliari, a Urbia, pare che la cabina toccava in terra quando vediamo i curvi. Ma come 190 non ce n'era proprio un motore che tirava come una bestia. E quindi moderni adesso c'è lo Scania, il Mercedes, chi pompa, non ti preoccupare. Ma non come 190, 190 era particolare, era una belva. Anche queste sono delle belve. C'hanno cavalli in più pure adesso. Ma per di chi se non puoi camminare sempre, sempre chi sarà la tenda. Adesso più di 80 non puoi camminare. E quando vedi il camion che arrivi a 80, ne calzavo subito un bimbo e frenavo un buco, se no mi punivo un buco. Vediamo solo a Taligia. Purtroppo più di quel tanto non puoi andare. Ma è un cesso, sono quei Volvo, mamma mia. Quando so carichi, nella salita della Fumosa, che sta andando a cosa? A Luogo Santo, ne ha parenti, la mazza ne ha parenti. Cavati di voi. Mente proprio diabolica che io non avrei creduto. Capito. Ma il sospetto di chi indaga è che voi non parlarli. Per fare quelle salite lì, le aveva fatte un medio volte. La salita la discesa mi ha fatto. Molte volte la lì. Dove a casa. essendo a Tempio. C'è che l'altra volta a Burgos, cazzo, stava tornando da Burgos, dice che gli sono mancati di freni. Una voce a me in campagna mia mi sono mancati di freni. E ne ha già legato a stanza di senza freni. Per cambio cazzo, devo andare a fare questa tenda, devo andare a fare, cazzo, c'è un po' di roba pesante, cazzo, giù mi ha detto che non si tira da qualche posto. E certo, quando ti mancano i freni è un casino, perché poi quel camion non c'ha freno motore. Non ha freno motore? No, si è rotto. E non la conti, a me no. Adesso lo devo aggiustare, non devo comprare un altro. Mica è molto importante, perché i freni più poco li tocchi e meglio è. Già lo so, l'FLC mi va bene un po'. Quello più piccolo, Cartaghin è tutto tanto, macchina è 20 anni, hanno lavorato un sacco di anni, hanno viaggiato in tutti i posti, hanno viaggiato quei camion. Sì, papà non è che migliorata di chilometri, ma tutta non verrà di più, sono stracchi. E sono andati in qualsiasi paese della Sardegna, sono andati in qualsiasi posto. Sì, me lo posso immaginare. Della facoltà di non rispondere. E se no per Arugulma che ha giunto la tarda a fare esame, tu mi sei la tracca al vero, infatti gli attirano i giambati. Ma avendo letto i giornali che riportavano la notizia, Gesù la Berta non entrava, manco l'istruttore mi riusciva, solo lui mi sono riuscito a far entrare la Berta in Gesù Arugulma. Ma cosa, si è entrata senza previsione e poi sapevo che non si entrava. Fascicolo di indagine diverso. Anche lui con un corpo voci e entra. Sì, il gatto è a nuoro, il gatto, il suo FLC, il Volvo, avevamo dovuto punire le cose, siccome toccava il serbatoio sotto, dei pezzi di legno per far uscire dal cancello, perché se no non ce la facevamo, abbiamo fatto il Redentore allo stadio di Nuoro. E ho capito. Poi alla fine a caricarli a molti così. Si è acciappano i gatti, non fate nei nuovo nuovo. Molte volte sono sempre in sovrappeso, però se li portano alla pesa poi i cazzo li fanno un verbale che se ne reca in basso. Che già è successo con quello più piccolo. Cazzo, lo principale mio, tu vendi da Cagliari, cazzo, venendo a Sassari, sempre con 50 quintali in più. Sullo Scania. Tra di lui per me, non è che ci raccontano i vecchi. È successo con uno di quelli a noleggio, stavo andando a Cagliari, mi sembra la volta che stavo andando a San Rocco, o a Decimo Puzzo, non me lo ricordo. Stradale, è messo il verbale sovraccarico. Cazzo ogni giorno, però andava presto, no? Lui veniva alle 7, era già a Sassari, perché partiva alle 3 del mattino. Partiva Cristian, però c'aveva sempre 50 quintali in più. Sempre più la voce andando a Cagliari, rigata all'altezza di Marasolsiera. Della terza di quarto mi sembra che noi stavamo andando qui su un BMW pompente a tutto pompa la pattuglia rubisica rubisica tutto motore l'hanno fermato. Sì, è un amico mio che sta andando a Cagliari, mi hanno pigliato subito la patente. La cosa ha superato i 30 km e c'è il ritiro immediato della patente, capito? E allora? Giulia. Mi pare che all'altezza di Quarto Sant'Ele era nel filmato. E allora? A noi il principale di regia, non curritemi, a chi si currite vi può venire un verbale che non ve ne pago. Non paga niente, adesso non paga in duccia. Tu mi da qui la macchina. Ehi, ha detto che non ne pagava lui, da non correre, che non stava perseguitando nessuno, però dovevi stare 12 ore sempre andando. E purtroppo tutti i lavori sono così. Maria, non arrivo mai, gatto, non finiva mai il travaglio. L'11 cero mi si pigliava. Sai cos'è? O lo fai con passione o lascia perdere. E così esci. È fatto così quei tipi di lavori. Esci o devi fare con... Non devi pensare a nulla, a me. E sembra facile. Io l'ho presa da grande, la patente e passione proprio non ne avevo. Evidentemente, io l'ho presa per fare compagnia a mio fratello. Io me l'ho presa e me l'ho sfruttata la patente. Lui se l'ha presa, però non ha sfruttato, non ha mai guidato di camion. E cosa mi ti chiama a dare? Sono lavori che il mondo esterno non vi pensi. Anche io quando vado a lavorare così, purtroppo mi chiudo in me stesso, lavoro e buco. Lo so, lo so, a noi mi si pigliava di più di gioco di denti. Io sono arrivato a fare pure un movimento terra, a farmi sparare con 3,30 in un burrone, cazzo, e da voi mi si chiudiano in alto 350 quintali di roba. E ci dovevi stare con un primino, cazzo, con 3,30, cazzo, qua sto dicendo quello che ho passato io manca al peggior nemico. Lo auguro. Così una volta mi dia aria, gatto, e non pure a Mattia, proprio un gatto di cavalori, gatto attaccato, con un bianale, di Medù, e non lo potevo manco portare io, però eravamo in campagna e lo portavo ugualmente, capito? Ma è purtroppo così. Gatto, a chi tu quando negavi la via dai freni, si blocca anch'io, piatto che frena a mano, si blocca e buco, perdeva aria da un soffietto del pianale, capito? E quindi ti bloccava anche il camion. E vuole riparato. E te credo, se perdeva aria da un soffietto, ti sto dicendo. Ma è così, purtroppo sono lavori che... E così, io purtroppo quando ho molti giorni di lavoro, cazzo mi dissocio, giusto per sentire mia moglie, boh. Te credo. Io ti ho detto, ma no, ma... E poi sono lavori pesanti, cazzo, non è così. Cazzo, io... Ha già fatto un bel di travaglio, ma un bel avviso. Al retromarcia col 330 poi ho un motore di sugamio pauroso con 350 quintali salivo in salita, gatto, era pauroso veramente col 330, tutti l'ingresso d'aria erano i freni, bridioni, tutto, se ti mancava l'aria eri buttito. Beh, normale. Soffia. Ui, vabbè. Ui, saluto a tutti e due. Tu dovevi soffiare, Natale, come si gonfia i palloncini e gonfiavi da tutto. E infatti ero sempre gonfio, ero. Se no niente. Guarda che molti che fanno i camionisti non è che la fanno apposta, è che stanno ore e ore girando, si dissociano dal mondo un po', stanno giorni, hanno le tappe pure dove devono andare e tutto. Allora, che credi, cazzo, così? Uno che non lo prova non lo sa. Il fronte familiare, cazzo, ci vuole passione per fare quel lavoro lì, se no non ne vale la pena fare quel lavoro. Se non è passione, no, molti lo fanno per passione proprio, perché sono da piccoli in mezzo ai camion. Ma quando stanno mesi in giro, è un mondo tutto a sé, è tutto diverso. E se no c'era un amico mio che faceva l'autotrenista e portava l'articolato, quello faceva l'estero, andava fuori in Inghilterra, in Olanda, quello trasportava la carne, trasportava, cazzo, me ne ha raccontato di tutti i rigurori. Lo so, è un mondo a sé, di tutto, beh, cercando i corsi di tutti di più. Questo va via la calamita, gatto, fa, non fa funzionare bene il tachigrafo, fa baciare la velocità. Penso che è bastardo. Ma se trovi, se trovi quello dritto, sono cavoli tuoi. Se ti scoprono è un casino, ce l'arresto mi. Sì, signor, perché se tu manipoli il tachigrafo, sono 6 mesi di prigione. Ma dipende dove lo fai. Se ti comprino è un casino. Chissà, amico mio, va via la galamitta. Abbiamo acciappato un modo di abbassargli la velocità e al tachigrafo. Critichi tu tanto, non azzara. Però se trovi la pattuglia che ti si mette dietro, ti misura, tipo uno che gli hanno fatto, gli hanno detto, gli ha detto, guardi, se non me lo dice è peggio ancora, gli hanno detto, se non me lo dice, l'hanno portato in un'officina specializzata, l'hanno fatto smontare tutto, gli hanno trovato il congegno. E c'erano quelli che avevano il telecomando per attivarlo e per disattivarlo, e ne hanno fatto di cose. Adesso invece è digitale, cazzo, mi sembra che sia un po' più difficile attaroccarlo il tachigrafo. Un disco cazzo da 6 mesi prima di Bonera Mucciarazzura. E già lo fanno il taroccamento, se ti trovano ti spaccano. Io ho avuto il coraggio di andare 15 giorni senza tachigrafo perché mi si era rotto. Cazzo, alla fine non ce l'ho fatta più, la giusta principale, io oggi non ci vado a lavorare. Ma non ci vado, se non mi accorgo sul tachigrafo fino a vanno, non ci entra in carriera a te, la giudizio. Hai fatto bene. Allora mi ha mandato all'elettrauto a farmela aggiustare. Non funzionava, Io sono guai, mi. Tu. E poi a me mi fermavano tutti, cazzo, con chi sono furgone, cazzo, tutti mi fermavano, polizia, carabinieri, finanza, tutti, a chi vuole ambiente a città, a tutti no, che se mi fermano, cazzo, mi fa di 9-1. Qua sta vedendo lo scontrino, sta vedendo. Avanti a Tone che vado un attimino, che mi alzo dal letto, va. C'è ancora a letto, sì. Già vabbè. Allora, Natali, non sei conveniente. Perché non si sente che sono portatile, avanti Natali. Sì, assolutamente. E cosa sono combinendi? Nulla, non sto combinando nulla, Antonè. Schifo. Anche sono fermo, figurati, senza marina, senza niente dalla fine di novembre, quindi è tutto dicembre, sono fino al che è fatta a Roma. Il 26 gennaio si arriva il messaggio, è bene, se no mi attacco a pupa, mi attacco, capito? Ti metto, dice, deve arrivare il messaggio il 26 di cosa, di gennaio, mi ha detto. E tu il 27 hai detto, cosa faccio? Ho detto, vado di sabato, ho detto, che cosa, e tirami la carta, ma lei è esaurita, gli ho detto. No, il 26 è venerdì, il 27 è sabato. Non ha detto che ho avuto il capito con il papà subito. Ma non c'entra niente. Bisogna vedere se ce ne danno, perché è diventato più difficile di quello che avevamo prima. A me mi ha detto che avevo il reddito alto, ma adesso. Dimmi tu. Era controllato. Quella del cazzo. E non si sa se me ne danno, infatti ho fatto tutto, adesso bisogna vedere se mi mandano l'SMS, come andare a pigliarmi la carta, capito? Se non arrivi vuol dire non ti dadini, non è a tutti che lo dadini, no? Ah, perché volevano il reddito lordo quest'anno, non quello netto, che è una cosa illegale secondo me, a chiedere il reddito lordo, per forza è più alto quando è lordo. A me vabbè, ha fatto tutto il caffè la verità, quindi adesso devo fare il reddito del, cioè il reddito, l'ISE nuovo del 2024 devo fare. E siccome con Giovanna abbiamo fatto la successione, quindi adesso mi arriverà il diesel nuovo e devo fare il diesel nuovo, dopo dopo il 10, dopo il 15, perché c'era stato prendo cuore la capetta alle poste per la giacenza media, e capito? Prima del 15 non te la fanno, quindi poi dopo il 15 devi andare al CAF, eccetera, eccetera. Io l'ho già fatto, me l'ho scaricato da internet la giacenza media. Ma devi andare al CAF, però. E già fatto, Aggiù, tutto fatto, Aggiù, Bururise l'ho fatto io. Allora, a me mai, quando poi martedì prossimo viene a ritirare l'ISE, facciamo l'altra domanda, perché quella di prima adesso la bloccano perché non vale più. Quando vieni per l'ISE a ritirarlo ti faccio l'altra domanda. E cosa è, che domanda è che non vale più? Io ho fatto tutto, anche quello digitale, tutto aggiovato, l'attivazione digitale ho fatto, tutto quanto. Il reddito di cittadinanza. Adesso si chiama ADI, si chiama. È stato detto. Reddito di inclusione. Quello lì ho fatto. Non ho dubbi, signor. Ho fatto tutto quanto, anche l'ISE ho fatto. Perché mi ho scaricato la giacenza media da internet. Dal sito delle poste. Siccome ho la poste io. Ti danno la giacenza media. Ti danno, me l'ho stampata e gliel'ho portata. Ho fatto tutto. Adesso loro, da quando tu hai fatto tutto, hanno 120 giorni, ti danno gli arretrati pure, tanto loro hanno 120 giorni, devono accogliere tutto. No, il 26 ti pagano se ti approvano la domanda, entro 120 giorni devi andare agli assistenti sociali, se no te lo bloccano. Ecco com'è il discorso. Ecco, allora voglio farvi sentire. Non è che hanno 120 giorni per approvarla, no? Ti approvano a gennaio, pagano, il 26 gennaio. Però se tu non vai a presentarti agli assistenti sociali te lo bloccano. Funziona così. Ma che c'ha manietti, non che ci devo andare io. Ah no, se tu non ricevi nessuna chiamata ti devi presentare tu, se no te lo bloccano mi Luca. Aspetta 3 mesi, tu aspetta 90 giorni, se entro 90 giorni non ti chiamano gli assistenti sociali, ti devi presentare tu e glielo dici, io ho fatto la domanda così però non ho ricevuto nessuna convocazione da voi, non ti darà passare dentro 20 di essi, non ti bloccano. Luca, ti devono prendere in carico gli assistenti sociali, hai capito? A me me l'hanno fatto subito, me l'hanno fatto, e quindi io sono a posto. Poi sono andato al CAF, ho fatto la prima domanda e mi hanno registrato, adesso ho fatto la seconda e mi sono arrivati 4 numeri, anzi 2 numeri telefonici che... Vabbè, non c'entrano nulla, ho telefonato a loro e mi ha detto che in pratica caricano il 26 e il 27 ritiri la carta, così mi hanno detto, capito? Chi non è sotto in carico dalle sedi sociali oppure dall'ufficio di collocamento, in pratica non prenderà nulla. Vabbè, io sono invalido, non mi devo nemmeno fare, io mi presento, però mi diceranno, lei non deve fare niente perché ha più di 60 anni e poi è anche invalido, come hanno fatto l'altra volta che mi hanno chiamato gli assistenti sociali, sono andato lì, l'ho presentato tutto e mi hanno detto, lei non deve fare nulla, ha rubato del lavoro, era me. Però io avevo più di 60 anni e in più ero anche invalido, quindi mi hanno detto lei non deve fare nulla, però questa volta ti devi presentare per forza, se no te lo bloccano. Una volta che tu ti presenti ti dicono che non devi fare nulla, però l'importante è che ti presenti lì al primo colloquio, se no te lo bloccano. Ok, già lo so, io ho già fatto tutto. Comunque, ho fatto il pad, quello digitale, poi in pratica si chiama atto di notorietà per esattezza. Quando sei invalido devi fare quello, hai capito? E quello lo mandano direttamente loro all'INPS, hai capito? E poi l'INPS si arrangia, infatti io ho già fatto tutto, adesso ho chiamato a Roma e all'INPS di Roma, al numero verde, e mi hanno risposto così, dice che dal 26 in pratica In pratica dovrebbero mandare l'SMS per poter andare a ritirare il 27. Poi non ho capito come, ma cioè, se ti mandano l'SMS il venerdì, il sabato penso che la carta non sia pronta. A meno che non ci abbiano le carte già pronte alle poste e tutte cose, questo non lo so. Se non sarà di lunedì o martedì, quindi questo è da vedere. Ehi, la carta c'è già, ci sono già i soldi per la carta. Ti chiamano ad andare a ritirarsela, ci sono già i soldi caricati. Come l'ha fatto con il reddito di cittadinanza. Secondo me la considerazione proprio perché comunque. Io pure mi non devo buttare nulla, va giù una cassa di invalidità in Bruzio, che me l'ho scaricata, ho fatto la domanda e mi è arrivata a casa, con la fotografia e tutto. Quando ti ripresenti quella hai fatto tutto. Perché c'è tutto dentro quella carta, tutti i certificati, tutto quanto c'è. Io ho capito, no, quella non l'ho fatta ancora io, sto aspettando.